video su YouTube, l'ho visto anch'io con quella canzone, ma a me non mi sembrava granché, comunque. Ah, che bellina. E comunque in ogni caso si sono prodigati a scriverla, a farla, eccetera, eccetera. Il club, basta che tu scrivi Antonè, club Alfa Tango, metti la città e via. Oppure ti metti Radio Club Alfa Tango e ti manda tutti gli Alfa Tango che esistono in Italia. Sto scrivendo, Comunque buonasera. Buonasera Marco da questa parte, mi pare di aver capito che sei da Ussi, ma stai pompando perché sei roba di 9.20, 9.25. Diciamo di sì, dai, ma niente di che. Caspita, sembri a Sassari, veramente sembri a Sassari, un segnalone mi è arrivato, ok. C'è qualcun altro qua? No, e adesso così bene va. Allora, premi importante monta. 9.10 Già va? Oltre 9.20. A me sembra 9.25, ma... E dai, poca roba, dai. No, comunque l'ho acceso perché c'era un po' di propagazione e dunque ne approfitto solo in questi casi, ecco, poi rimane sempre spento. È bello, dai, è bello, insomma. Ma io sono liscio, liscio, proprio, liscio, liscio, liscio. Ma guarda già, la verità è che sto usando il 68, il Galaxy, ho una recezione che... Una recezione, un ascolto che è uno spettacolo, veramente. La 27, secondo me è il massimo. Adesso proveremo l'altro, come che sta mettendo le mani addosso, vediamo un po'. Comunque il Galaxy per il momento è il numero uno, per me, Sì, senza ombra di dubbio. La ricezione del Galaxy non ha paragone, nessun'altra parte. A volte è meglio anche di certi apparati radioamatoriali come ricezione. Ma veramente, è impressionante. Adesso sono almeno, guarda, un mesetto buono che sto usando il Galaxy. Io ho messo da parte il 68. L'ho collegato oggi, ma guarda, è un abisso veramente impressionante, guarda. Io spero che l'altro, giustamente, già in buone mani, dovrei già con un bel apparato lo stesso, è una bella ricezione. Adesso come mettere le mani addosso vedrai che si entrerà bene anche con quello. Cappa, che quanti canali ha quello lì, ricordami? 40 canali, anche lui ha anche 40 canali. Ah, cioè, vabbè. Espandibile. Quello è, ma infatti quel giorno che lo ritiro glielo chiedo a vedere se lui, diciamo, le fa anche queste cose qua. Lo vorrei portare come il Galaxy, ecco, alla fine. Avere 1, 2, 3, 4, 5 bande in più, ecco. Beh, anche si può fare. Ci sono le schede dei canali, anche... Ah, ecco, che riproduca direttamente il Galaxy, perché meno male fa canali alti, bassi, alla 27, quando c'è propagazione, per dire come ieri, ero in B, in canali bassi, in B ed era pieno pieno di propagazione dalla Germania, impressionante, e mi sentivano benissimo. Avanti Sud Italia, se ascolti la città di Sassari, Nord Sardegna, l'operatore Gianni Doppio Runi in compagnia di due amici qua in zona, avanti. Sì, buonasera, ben sentiti qua alla provincia di Potenza, sul lago del Pertusillo, Montemurro, la stazione Turbo Bianco. Cappa Turbo Bianco, ben sentito, l'operatore Doppio Room che ti supercordializza e ti fa subito, ti manda l'amico Barracuda che puoi fare a girare, avanti Barracuda. Buonasera Turbo Bianco, Barracuda, operatore Nord Sardegna, buonasera. Turbo, l'hai sentito la Barracuda? Trasparente. non sta parlando, no? No, sicuramente si è andata via la propagazione. C'è proprio chiusa. In SSB si modulava bene, c'era gente da Taranto, c'era gente da Bari, Sud Italia arrivava bene. E su che canale? Su canali alti, tipo il canale 16, dovrebbe essere il canale 56 e il canale 51, in banda laterale, USB. E fuori frequenza non ci va. Sì, guarda, non fanno niente tanto, non fanno niente anche quando dovrebbero. E fino a M, lasciavi in AM e andavi in USB, giusto? K, USB, segnali erano anche 9 alle volte, oscillavano molto. Sì, in AM viene male fare i DX, in FM migliora un po'. Sì, quello è vero, quello è pienamente d'accordo, rimane molto più limpida e comprensibile, meno sporca. Per un SB è una bella marcia in più, è la verità. Cioè, addirittura stavano modulando tra di loro, tipo Taranto e Bari, oppure altri posti anche più distanti. Modulavano tra di loro in banda laterale e si sentivano meglio. Volevo chiedere già, ma tu meno male loro se l'hai conosciuto, sì? Sì. Non lo disse, l'apparato. L'ho conosciuto, l'ho solo ordinato io. Probabilmente quel voice che c'hai tu è quello che ho ordinato io da internet. Praticamente sono stato sino a mezzanotte e mezzo per ordinarlo, l'ho ordinato a Claudio, poi Claudio l'ha data a un'altra persona l'ha parlato, ha fatto il giro. Perfetto, è nuovo, ma comunque prima di ordinare quello, per dire, quando eri più ragazzotto l'hai utilizzato come apparato? No, allora c'è un apparato americano, Antone. Sono apparati che ho visto adesso, io questi qui, non... adesso ti parlo di 4-5 anni fa, però non li conoscevo prima, erano apparati americani, qua non venivano nemmeno, non si conoscevano, si sono conosciuti tramite internet questi apparati qua, perché prima non si conosceva. Ho guardato dietro ed è del 76. Di vecchia era. Ma detto non c'è neanche un grazie, veramente esteticamente in perfettissime condizioni. Io l'ho provato in banda USB, USB c'è una ricezione incredibile, veramente siete veramente bene. In AM che dava questo piccolo problema, detto che sta cambiando dei pezzi, giustamente si possono fortunatamente riparare questi, dai. Sì, hanno i pezzi normali, dai, gli apparati normali, quindi già si trovano, al contrario di altri apparati americani che non si trovano i pezzi, non te li mandano perché li aggiustano solo loro e non ti mandano i pezzi. Che furbia! Ah, oh Gianni, stasera ho portato il Connex 4000 da Vittorio. Ah, ce l'hai fatto. Eia, così quando potrà, con calma lo fa e lo rimettono in sesto. Garantisco che guarda che è in buone mani, eh. Io ho portato a lui l'apparato, guarda, boh, impressionante. Oh, raccontali Marco, raccontali ad Antonello la storia che abbiamo visto l'altro giorno. Aspetta, e qual era? Quello quando abbiamo trovato la vittura. Allora eravamo lì a San Francesco in pare, dove c'erano quelle scaline, cioè per vedere con le tre antennine da macchina, Vittorio col furgone con quelle antenne a lui, si ferma, ciao eccetera eccetera, prende questa canna da pesca da 12 metri, che era il doppio del palo della luce, avvolge il cavo intorno a questo palo, lo ferma sulle porte posteriori del furgoncino e comincia a modulare, ma tu dovevi vedere questa antenna, la vedevi da lontano, era una cosa impressionante, non finiva più, era presente una canna da pesca in, non so se sia ABS o che materiale era, aveva avvolto il cavo della lunga della lunghezza giusta, in modo da parlare in 40 metri. Sei un genio, già si diverte. Voglio vedere, le macchine che passavano guardavano, uno in bicicletta ha detto, ma qua in occhi è pieno di sbirri, come ha visto le antenne, no? Ah, di sbirri, così, allucinato. Ehi, se vuoi stare io, ma perché c'era la macchina mia con l'antenna corta, quella di Marco Condo con l'antenna un po' più lunga, e poi c'era quella di Vittorio che una cosa riuscita invedibile, ma l'antenna, io ho fatto la fotografia anche a me, se ci vediamo già te la faccio vedere. C'è furia, no, non ci pensa due volte, lui prende, sperimenta e poi degli altri non gli frega proprio niente. E io non ci vedo un ragazzotto, già se ne frega. Ha visto che fuga di gas, ti sto dicendo che lui con poche lire è arrivato a tre parti, c'è gente che spende milioni e coso, e lui dalla macchina arriva, nessuno ci voleva credere che era in macchina, va più conto, 9,20, non ti segna lui. Quello già è vero, è un tipo che già si tira le maniche, no? Già c'è il fatto suo, e poi alla fin fine è anche una bella soddisfazione quando riesci a costruire qualcosa di tuo e dai degli ultimi risultati, altro che stare lì a comprare. Ciao Laggio. Che fa Laggio? Buonasera Leoncino. Chi è già? Leoncino. Non riesco a correggiare. Proprio Rudione. Buonasera. Vieni già, il bimbe c'ha Leoncina, l'intendese. E era più inteso. E che apparato c'è Leoncina? Apparato ciò, sempre lo stesso, già, perché? Perché c'è il bip adesso, cosa l'avevi escluso? Bip c'è. modifiche, sai, a me mi chiamano Leoncino l'inventore. Inteso là già, Leoncino l'inventore, ma è presente tutto il Rodione, quello te l'hai comprato nuovo. Io sapevo l'imbriagone. La massa te ne guai a te, a Gianni e a Antonello. Mi sa che dice lo zampino di Antonello proprio. Mi sa proprio di sì. Immagina poi con chi esce. Immagina di due. A Marco Condo. La storia quando siamo saliti a Ussi. Vabbè, chi conosceva più gente, io o Antonello? Comunque, già non è ubriacone, stasera ci siamo visti con Alessio, lui ha preso il caffè come me, solo Alessio ha preso la birra. Ah, ma io lo sto scherzando, perché quella cosa di Ussi si è cotto come una pera, diglielo, Antonello. Ehi, ma corto di albero, è una cosa impressionante, non si mangia neanche a respirare. Cioè, tu, io devo andare un attimino in un angolino. Che cazzo di... Aspetta, sai che mi siete sono malmodulati, ripeti già quello che hai detto. Ho detto che a un certo punto ha detto, io me ne vado in un angolino, io in realtà non ci ho pisciato le risate, te l'ha cotto che pizza, a cazzo di luce è andato. Poi dimmi, ma già ti piace la qua vita? E perché Antonello no, vero? Antonello era Occiruio, ma non era tanto brutto. No, ma se ne fregava. Io non sai cosa è un cico, io sono Marcolo ma non mollo, sì, gli occhi mi diventano rossi, quello sì, però già riesco a tenere la situazione. Adesso se è sabato mi informo domani, bene, sono libero, a Napoli, chiedo a vedere se c'è la festa dei motociclisti a Ussi, poi se avete la possibilità vi avverto e salite. Non c'è problema, Antonio, non c'è problema, sabato dopo le 8 sono libero e se c'è la festa a Ussi saliamo, tranquillo, però portiamo anche a cosa, portiamo a Marco Condo, il nostro pipistrello. Ah, io non bevo, non mi cercate a me che non bevo. Bevi. Quando sei con loro bevi per forza. Poi ti porto io a vivere, Marco, lì, a Usci, che ti faccio fare un po' di giri di qualche tanca, hai capito? Di qualche localino bellino, a parte che poi porto anche Antonello. Porti anche? Ad Antonello di Usci, che lui certi locali non li sa, ma io sì però. E Filindela, guarda che ci abito io 39 anni, già li conosco i locali. È che sono alcuni ambienti che non mi piacciono, giustamente vado a quelli più tranquilli. Comunque, non c'è problema, già sappiamo noi dove andare, dai. Poi se c'è festa, ripeto, è la mia possibilità di venire, andiamo lì alla festa, poi andiamo da Alex, poi andiamo lì al circolo intro Saida, poi andiamo lì al Bar Cecilia, e ce ne sono tanti da girare, dai. Ci facciamo belli belli. Qua io auguro che ci sia la festa. Poi il sabato te la faccio vedere io chi ne sono, ti faccio fare conoscere i Sorci Verdi. Ah, vuoi mettere una sfida? Va bene, ci sto, Luigi, dai. Se c'è la festa già mi mando un messaggio, poi mi dà un'altra risposta. Poi vediamo un po' chi la vince. Andare. Però Castro non posso trattare il sabato sera tardi, perché domenica io c'ho la crisima di Marco. Ah, non ti preoccupare, ci vai conto già. Giusto, va, così faccio festa. Allora, fai 2 giorni di festa, io ci vuole ogni tanto, vai. No, vabbè, te ne puoi dare anche via verso le 2 o le 3, dai. Già non c'è, già non è già abbastanza giusto. Sì, ma quando io sono in giostra mi piace giostrare, non mi piace andarmi di primo. Scusami, se ci riusciamo, Marco Ponta convince Antonello Pomponio a venire e ci portiamo anche Antonello. Non mi sembrava vero qua, allora ci divertiamo ancora di più. E facciamo la compagnia del boccione. No, del boccione, del bottiglione. Marco non deve guidare lui. Dice Maria, e voi corti dietro magari, no? E ti vomitiamo tutta la macchina, te ne immagini? No. Guarda, quando già abbiamo la patente, già abbiamo la macchina, Marcolino, non le facciamo le certe stronzate, hai capito? Io lo posso fare quando sono solo, capito? Non c'ho niente, nessuno, non c'ho passeggeri in macchina mia, e lo posso anche benissimo fare, però quando c'è gente, stai tranquillo che io vado piano, non bevo, e dunque c'ho sempre 3 bottiglie di acqua in macchina, ce le ho sempre, dunque. Ecco. Leonci, non ti preoccupare, tanto ti conosciamo bene. Lo so che quando tu bevi vomiti prima di sederti, non c'è problema per quello. Ma oh, Antonio, è quasi convincente, era, mi sembra fastidio parlando. Lo so, adesso è bello sano, ma quando in c'entra già si trasforma, non ti preoccupare. Ma non è che invece che acqua sono bottiglie di vino bianco, no? Marco. Ci ha fatto poco ridere, c'era una coppietta che stavano piccionciando, no? Si è messo gli unici nel mezzo, si voleva baciare da. No! Allora però aspetto la chiave, altro che 9! Si metteva se la guardavo in faccia! E il ragazzo cosa ha detto? Nulla, non ci conosceva, conosceva Leoncino. Ma l'ha visto anche in che condizioni era, e dunque non è che ci ha fatto più caso, alla fine ha lasciato così com'è, non si reggeva in piedi. Poi il ragazzo era partito, era proprio, stava fumando con questa tippa, fumando nel senso che da quanto aveva il calore addosso fumava. Allora doveva approfittare. salve Giuseppe. Cappa. Ah, c'è chi era Giacchi, quello là che abbiamo incontrato a Ussi? Quello con la tipa. Quello con la tipa. Sai quel pescivendolo che c'è lì, salendo in VHV? E non ce l'ho presente, Giuseppe. VHV, la cartella, le cacce. Dove c'è le cacce? Quel negozio, c'è la Copec, Cisa Copec, a fianco, più sopra, c'è quelle che vendono il pesce surgelato, quella roba lì. Polo Nord. Polo Nord. Il pesce vendolo che lavora lì dentro, era lì. Non ci ho fatto caso. Comunque lì a un amico mio, sai cosa gli è successo? Si è fermato per scaricare i pulmi, cazzo, c'aveva lo sportello aperto, è andato dentro a scaricare un 4-5 casse col carrello, è ritornato lì e ti ha visto questi due scappando, si avevano rubato due casse di pulmi e se ne sono scappati. Cazzo, allucinante. Ci ha fatto a pigliarli, se ne sono andati in macchina, correndo, caricati in macchina e fuggito. La fame c'è in giro. Attenti, perché adesso questo qui ce l'ha in bolla, cosa fa? Se li paga adesso. Se li paga perché non è. Il principale può anche non crederci, c'è a chi le dati i pulli. Vabbè. Non lo so, ma il carico non è assicurato, no? Non lo so se per furto è assicurato. Quello è. Vabbè. Vabbè che lui uno se li può fregare e dire che gliel'hanno rubati e tanto paga l'assicurazione. Non mi sa che il carico è assicurato in caso di incidente, che si rovini il carico, allora se lo pagano, ma per furto non penso. Ho capito, no. Meno male che gli hanno preso solo i pulli, c'aveva gamberoni, un bel roba. È una cosa allucinante, Cazzo, due cacce se ne fuggi, ce ne sono fuggiti in due, dice che erano. Una caccia loro, cacciarato correndo da due vie di Sassari. E poi lui ha detto che ha perseguitato, che aveva finito, ha chiuso gli sportelli, ha perseguitato con il furgone. E ha detto che hanno preso la macchina e sono scappati. E non ha fatto in tempo manco a prendere la targa, nulla. E meno male che non gli hanno fregato il furgone pieno di roba a carico. Tanta roba. Sì, se lasci le chiavi nel furgone non ti conviene mai lasciare. Non sai che a quel dottore veniva uno di quelli che fanno i panini, ce l'hai presenti, ma non di quelli paninari, no? Ti portano i panini pronti, confezionati, con insalata, il tonno, eccetera, eccetera, no? Panini e tramezzini. Questo chiave lui ha cercato di lasciare la macchina in moto, con lo stereo acceso, cosa? Ha lasciato le sportelle aperte, se invece li hanno chiusi, ha liberato la macchina e sono fuggiti con i tramezzini e tutto. Mamma mia, poi la macchina, una rogna, una rognaccia. Avanti Giuseppe. Cappa, vabbè, vuol dire che avevo pure il pollo arrosto, quello là. No, ma questo qui, quello dei tramezzini l'hanno licenziato, poveraccio. Perché dice che non doveva lasciare le chiavi nella macchina, eccetera, però mi dice che ci ha buttato fuori, capito? E è ritornato, cioè io stavo parcheggiando col furgone, l'ho vista la macchina partire, però pensavo fosse lui. E quando mi sono fermato ho visto lui con i vassoi, no, siccome ci ritirava su i vuoti, perché la porta con i vassoi, questa roba lì domani si deve prendere, no, vuoti li lascia pieni. Sono uscito con i vassoi vuoti, è rimasto cazzo impietrito, sai cosa vuol dire? Una statua così bloccata. La macchina dov'è? Qual è la macchina? La macchina mia, come ho rubato la macchina, chiama i carabinieri, un casino, sono tutti i carabinieri, per farsi la descrizione, eccetera, eccetera. Ah, non l'ho trovata più. Attenzione, attenzione, Nord Italia, se ascolti la grande isola che fa chiamata. Avanti Nord Italia se copi la Sardegna. Campa Rossero, ciao Sardegna, la vicina. Sì, che ti ascolta forte e chiaro, il 73 a tutta la Sardegna, qui la Costa Ionica, Ciarnitango, Catania, sotto il vulcano. Sei la Catania, Barracuda, la provincia di Sassari, con gli amici sempre di Sassari, avanti per l'amico. Rogero Copiato, ciao Barracuda, nella provincia di Sassari, sono Luigi Screzzi, qua modulante sempre nella Costa Ionica, sotto i piedi del vulcano Etna. Con chi sei in queste ore, magari così lo ascolteremo se lo ascoltiamo. E avanti Gianni Doppiorum per l'amico. Papa, buonasera amico della Sicilia, nonché diciamo la fratellanza della nostra isola. Ben sentito, cordialità. La stazione Gianni Doppiorum che ti supercordializza, è una stretta di mano, avanti. Ciao Gianni Doppiorum, già noi ci siamo ascoltati circa due giorni fa. Sono Luigi Screcci, sempre nella zona di Ciarnitango, Catania. Cappa Screcci, me lo ricordo, sì. Infatti ti avevo chiesto se era Streck o Screcci, e tu metto Screcci. Ero in compagnia dell'amico Giuseppe Leoncino quando è successo. Guarda, siamo nel ricordo, e avanti Leoncino. Buonasera all'amico della Sicilia, da questa parte operatore Leoncino della Sardegna, cambio. Ammarogero, ciao Leoncino, è 73, benissimo ascoltato, da parte mia, sempre Luigi Screcci, coordinate Charlie. Cappa, non lo so se ascolti anche l'altro amico di Sassari, Marcolino, avanti Marco per l'amico della Sicilia, cambio. Avanti l'amico della Sicilia, se ascolti Marco, stazione Condor da Sassari, avanti. Ma Rogero Marco, ascolto pure te, mi ascoltavo sempre qui da parte mia, Luigi Screcci. E niente, ascolta tutti, Barracuda, Gianni Doppiorum, ascoltiamo un po' a tutti. Ascolto un segnale per me, fa la cortesia sopra il Barracuda. Barracuda, il tuo segnale è più forte di quello di Gianni, perché Gianni mi arriva 9 e tu mi arrivi 9 e 10. Ah, perfetto, ti ringrazio, vuol dire che sono un pochettino più positivo da parte tua, e comunque c'ho un piccolo aiutino sotto, Paroggero, magari se mi dite come arrivo io, c'è stato. Capito, cosa ha detto già? Che vuol sapere come arriva lui. Ah, avanti, così ti do un controllo. Paroggero, Barracuda, ti ascolti il discreto, ci abitando. Ultimo passaggio, 9-5, 9-5 oscillante da parte mia. A Paroggero, perfetto, già questa è la seconda volta che siamo su questo canale con la Sardegna, tutta una cosa bella, che dire, questa propagazione serale è una cosa positiva, uno fa quattro chiacchiere con molto piacere. E niente, rilancio il mic per Gianni Doppiorum, vai per te. Appagato, a me arrivi con Santiago di nuovo, ti stavo guardando lo smitter. Il segnale è preciso, identico al mio. Io sto scendendo con una Mantova 5, dai, la potenza dell'apparato e niente, alimentatore e microfono amplificato, dai. Tutto qua. Rilancerei tutto quanto, invece dimmi le tue condizioni di tabacco. Capito, scusami Gianni, se puoi ripetere le ultime parole. Ho detto dimmi le tue condizioni di trabacco, con che apparato, con che antenna stai uscendo. Ah, cappa, guarda, io ho un'antenna verticale, la Sirio Master, la 58. Poi come apparato ho un apparato abbastanza vintage, ma funzionante e molto efficiente, il President Jackson. E poi ho come microfono qua un detaggio più 9. E in più sono accompagnato con un piccolo Alfa della Ducati D300B. Va bene, è una modulazione abbastanza limpida, chiara, tranquilla. Giuseppe, a te il microfono, poi fai girare per Marco. TK, no, volevo chiedergli come gli stava arrivando io di segnale nella sua zona, dai, cambio. Guarda, tu mi fai un segnale di 7 oscillante, però fino a 9, e la radio è abbastanza comprensibile, è una radio oscillante, oh. Avanti Marco. K, non credo che mi ascolti, perché mi sta arrivando basso adesso, e io sto usando solo 10 watt, 10 watt dell'apparato. Avanti l'amico della Sicilia, se mi ascolti ancora. Oh, non lo sento io, eh. E neanche io, sicuramente la propagazione sta un po' mollando la presa, però vedi, fortunatamente ogni sera c'è un tipo di invertire, dai. Almeno quest'estate speriamo che sia positiva per fare un po' di QSO. Anni, guarda adesso, sto uscendo adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Sì, adesso sì, poco fa sento solo il mio, proprio l'ho capito per il tuo. Avanti, l'amico della Sicilia, guarda se è cambiato qualcosa adesso, cambio. La Rogero Marco, guarda il più stabile sul 9, però onestamente la propagazione credo che sta per andare via, anzi ne approfitto ragazzi, prima che la propagazione ci abbandoni, ne approfitto per saluto a Marco, saluto a Barracuda e saluto a Gianni Doppio Rum, qui dalla Sicilia, dalla Costa Ionica, Luigi Screcci, vi saluto e vi cordializzo, vado con continuo e con tutto quello che fate anche per domani. Ciao, vai, speriamo che ci si ascolta presto con la nuova propagazione. Luigi Screcci, vi saluto. Papa Luigi, dai, ci ha fatto piacere fare questo con te, ti ringraziamo per la chiamata e per aver affrontato questo questione tutti insieme, eh? Ci ha fatto piacere, avanti Antonello, buon corretti, dai, tante cose belle, avanti Antonello. D'accordo, ci sentiamo alle prossime propagazioni permettendo, salutoni dal Barracuda. A Rogero ragazzi, ho seguito tutti, ciao nuovamente, saluta. Ciao, buonanotte e buon trabacco per domani. Non c'è niente da fare, la Mantova è la Mantova. Perché dici così? Io non demoralizzarti, ti ascolto anche a te. Ma mi sono accorto che aspetta. No, mi sembra di sentire chiamare. Mi sono accorto che la Mantova è molto molto più recettiva e anche la trasmissione sfrutta meglio. Naturalmente io ovviamente non la posso mettere, non la voglio mettere. Casomai ripiegherò su quella famosa da 70 euro, 60-70 euro. La Energy 5 ottavi, che è molto leggera, ha solo 3 radiali e va più che bene, da. Comunque non guasterebbe anche un linearetto, un aiutino. Scusa, guarda, io sto usando la... Vabbè, c'è un'ottima posizione, bisogna guardare anche quello. Ma io ho semplicemente un Energy mezz'onda, sempre dalla Midland, senza radiali. Eppure mi sono trovato benissimo, mi ha dato delle ottime soddisfazioni, però bisogna sempre tenere presente che sono una zona abbastanza aperta io, e alta, giustamente. Ah, ho copiato, sì, la conosco. A me piacerebbe quella 5 ottavi. Io sto usando praticamente una mezz'onda della LEM, la Ringo LEM, una Ringo per la 27, modello raccorciato però, perché la LEM ci ha fatto questo regalino, diciamo, di accorciare l'antenna e fare molta bobina. Com'è il segnale lì da te? Sono con 10 watt. Ma da parte mia sei 9,5, ma 5 è bello pieno, positivissimo. Arrivi molto bene da parte mia. Ho capito, sì. Comunque questa è proprio ai minimi termini, è la più scarsa delle mezz'onda. Non è come le altre che sono belle, come dire, sviluppate in altezza, questa è proprio in economia, diciamo. Ma comunque se tu sei una zona positiva, secondo me, poi giustamente devi valutare tu, questo è il mio pensiero. Guarda, io con la mezz'onda mi sono trovato benissimo. Resiste a qualsiasi vento in questi ultimi periodi. Ho dato una piccola manutenzione di pulizia, basta, ce l'ho tra una cosa e l'altra, tre annetti, e va sempre bene. Poi ripeto, se è una zona positiva, va bene anche un'antenna così. Beh, io qua sono, non sono messo poi così male, però non c'è paragone per esempio con la zona di Gianni, che lì è mostruoso, oppure anche Ossi alto, quindi con una mezz'onda anche riesci a fare di più. Comunque per adesso me la tengo finché non si sfascia del tutto, me la sfrutto almeno per parlare in città. Io sono riuscito a parlare, che ne so, con Taranto, con Brindisi, e ho chiamato anche l'Inghilterra, l'FM in questi giorni, e mi hanno ascoltato. Eh sì, alla fine sì, quando c'è propagazione, guarda, non c'è antenna che tenga, funziona benissimo tutte e quattro. Guarda, io mi ricordo 2 anni fa che c'era questo tipo di alghero che c'era una piccolissima antenna, sempre della Midland, non mi ricordo se la Mini Turbo, ed altra 1 metro di antenna, pochissimo, eppure questo collegava tranquillamente qualsiasi zona del giorno in Italia, zona alta. Cioè la propagazione, dunque l'antenna, diciamo, ha un suo piccolo valore alla fine, la propagazione alla fine è quella che comanda di più. La Mini Turbo mi pare che sia della LEM, è possibile? È a 2 metro. Sì, ma questa è la fatta in vetro rigido, era un tubolare di 1 metro, tutto nero, la circonferenza era da 10. Ah no, allora non è quella che dico io, deve essere un'altra antenna. Io conoscevo la Turbo Mini della LEM, che praticamente ha la stessa carica grossa e lo stilo abbastanza robusto, diciamo, in acciaio, però stilo d'acciaio. Ragazzuoli, io vi saluto, sono già le 11:20, vi saluto là, parte un buon consueo, ci sentiamo presto, ciao ciao, buonanotte a tutti quanti. Ok Giuseppe, ci sentiamo alle prossime, dai, avanti Gianni. Ci sentiamo, buonanotte, tante cose belle. Ciao Leoncini, scusate un attimo, sto portando mia figlia a letto. Ah, là, di nuovo, là. Ciao ciao, buonanotte a tutti, là. Ciao anche Antonello, siamo qua che ti aspettiamo, là. Avanti che è rimasto. Oh già, ma ti stai addormentando? Che si sente? Sei stato assente un attimino, poi hai ripreso e eri un po' abbacchiato, diciamo. Ah, ti volevo dire, ho chiamato Magic Phone, quello che aveva il mio Albrecht 5008. Praticamente l'hanno spedito alla CTE, perché loro quella riparazione non la possono fare, non ci riescono, l'hanno mandata direttamente alla ditta, capito? Quindi o lo riparano lì oppure lo sostituiscono. Ah, buono. Ma speriamo bene, dai. Comunque questi SMD sono un po' più rognosi, ripararli è un casino perché sono microscopici componenti, eccetera, eccetera. Invece questo è componenti classici e francamente lo preferisco. Atto. Capo, hai detto Antonio? Stavate parlando? L'apparato che era difettoso di Marco, l'ha rispedito di dove l'ha comprato, e da dove l'hanno comprato l'avevano spedito nella ditta perché non era in grado di aggiustarlo. Adesso se riesco a aggiustarlo è bene, se no lo mandano nuovo. E che apparato è? Americano? No, negativo, è un Albrecht 5008. Praticamente la copia del Magnum 257, è piccolo come un autoradio ed è solito 400 canali, AM, FM, bande laterali, eccetera, eccetera. E purtroppo in SMD, quindi sono, i componenti sono microscopici e aggiustarli è un casino. Io preferisco questo apparato che ha i componenti classici, questo è Superstar 3009. Ce l'ho presente, infatti ti volevo chiedere anche se era di nuova generazione. Non è guardi la verità, fortunatamente sono riuscito a raccattare cose abbastanza vecchiote, però in ottime condizioni, dai, conviene alla fine cercare vecchi apparati, perché bene o male li puoi mettere le mani addosso e riesci a riparare tranquillamente. Questi nuovi, guarda, non conviene veramente, si sfasciano ed è un casino ripararli, è vero. Lo so, comunque adesso apparati con componenti classici ce ne sono rimasti pochi, sono tutti insieme degli altri. Guarda, i componenti classici trovi i Superstar della CRT francese, esattamente sono il 3009N, sono il 3009EL e il 3009EFT, sempre che si trovino ancora, perché sono considerati vecchi modelli. Poi si trovano i Jobix, questo è il Superstar 3009 della Jobix, importato dalla Proxel, questo è a componenti normali. E mi pare che i componenti normali c'era anche il Super Jobix 2000, quello col frequenzimetro. Gli altri sono tutti insieme dei nuovi. Sì, infatti mi pare che il metto prima dovrebbe essere colore argentato, giusto, tutto l'apparato. Questo che uso, sì, argentato, anche i CRT francesi sono argentati. Sì, ce l'ho presente, l'avevo visto in una rivista un po' di anni fa. Sono dei begli apparati, sì, ce li ho presenti, e poi non costano neanche più così tanto. No, se bene o male riesci a cercare piano piano qualcosa di vecchio lo trovi, e poi già se vedi che in ottime condizioni, una piccola revisionata già costa poco e ti rimetti in funzione alla fine. Adesso ho il Galaxy Saturn, è una RALA 68S, e tra un po' un ROIS, e dunque bene o male, dai, sono vecchi apparati in perfette condizioni. K, io mi sto chiedendo, quelli con i componenti classici, per quanto tempo ancora saranno riparabili? Ma secondo me, per altri per 40-50 anni, buoni, si trovano ancora le vecchie valvole, per dire, delle radio, che ho io a casa, della Mifar, della Telefunken, e non si trovano questi componenti per apparati, per dire, io ho voglia. Ah, ok, ma speriamo che la tecnologia non avanzi troppo in fretta, no? Perché sarebbe un peccato. Di questi qua, tutti gli altri baracchini che ho io mi pare sono con componenti classici, tranne quello omologato, che è microscopico, è piccolo come due pacchetti di sigarette affiancati, è l'omologato che tengo per la concessione praticamente, solo quello in insieme di tutti gli altri sono componenti classici. C'ho l'Alan 48, l'FM500S, il 548SX, poi fammi pensare, ho preso il conto, la verità. La voglia, dunque secondo me va, potrei farne anche a meno, sicuramente a volte l'esperienza insegna e sicuramente se capita qualche altra occasione ne acquisterai più di quelli nuovi, punterai sempre a quelli vecchi, come sto facendo io. Qui sto facendo io una mia ricerca personale per cercare di fare la mia stazione, diciamo, nel mio modo di vedere, ecco. E poi per ci manca poco, dai, ho quasi finito, c'è tutto quello che mi serve. Sì, vabbè, questi SMD, diciamo che è stato un caso mio, perché molti ce l'hanno quell'apparato e non dà problemi. Scalda un po', perché scalda, questo non scalda mai, a 10 watt non scalda mai, l'altro con 10 watt diventava una stufa. Va bene, vediamo se c'è Gianni ancora all'ascolto. Gianni! Mi sei dormito, mi... È minimo! Aspetta che lo chiamo. Gianni! No, andato è me. Perché lui mi pare ce l'ha nella sua camera, al baracchino. Cosa che non faccio io ce l'ho in salone, in modo da non coricarmi. Sono seduto. Se non mi addormenterei anche con l'apparato acceso. Vabbè, vediamo se non rientra. Io penso che devo ancora cenare, io ceno di solito tardi, perché se no mi viene di nuovo fame poi. Ecco, no, io ho mangiato verso le 8:30 a Puglia, leggero e tranquillo. Vediamo un po', sì io ceno, sì io ceno a quell'ora tua, poi alle 11 devo cenare di nuovo, capito? Sì, sarebbe solitario. Deve essere, eppure non ingrasso. Ero grasso un periodo, ero ingrassato verso la fine del 2000, adesso invece un pochino sono ancora, diciamo, presentabile, da. Vuol dire che fai abbastanza movimento e per bruciare? No, niente. Io non muovo muscolo, però brucia tutto. Hai ragione, deve essere il verme solitario. E sicuramente poi si cambia sempre un po' l'interno del corpo. Col passare degli anni cambia anche lì qualcosa, sicuramente stai bruciando di più. No, io devo muovermi un po', e non dico che sono grasso. Sono in forma, però devo sempre stare in movimento, se no accumulo chili abbastanza velocemente io. Io li avevo accumulati appunto fine anni 80, fino anni 2000, invece adesso pare che abbia il metabolismo più alto. Poi mangio molte schifezze, dolci, roba piccante, roba molto grassa, eppure... fortunatamente ancora non sto ingrassando, vabbè, cercherò di darmi comunque un limite, sennò poi sono guai. Quello genere, no, meno male mi faccio almeno 8 km al giorno di passeggiata e cerco sempre di tenermi un pochettino in forma. Beato te, io 7-8 km me li faccio in una settimana, seppure, se non in due. Oh, yeah. Mamma mia, Gianni, ci sei? Sei sveglio? Ormai è addormentato. No, io poi mi ho preso l'abitudine da anni. Devo camminare, se non sto male, per forza devo camminare ogni giorno. Se non ne faccio 8, ne faccio 4, poi devo sempre muovermi, e se no mi sento male, è più forte di me. Poi fa bene, ma roba che dovrei fare io, ma sono mandrone, capito? Tutto l'inizio alla fine, poi vedrai che te lo senti dentro di te che ti devi muovere, è tutto l'inizio. Quando inizi per una settimana, soffri un po', poi dall'ottavo, decimo giorno vedrai che guarda, ti senti un altro. Vediamo un po' di mettermi in carreggiata. Ok, io quasi vado. Gianni, vabbè, se mi sente... non mi sente tanto, lo saluto, ti saluto anche a te, ci sentiamo allora alle prossime, dai. Va benissimo, buon appetito e buonanotte, dai, ci sentiamo alle prossime allora. Ok, ciao anche agli ascoltori, buonanotte. Frank, cercano i 12. Ehi, buonasera, chi è il nostro album? Sassari, Sassari, Zona Via del Trento, ex Cinemariston. Perfetto. Castello Santiago di 95-910 modulato, no, Tartaglia, eh? Un buonissimo segnale, non c'è nessun problema. Avanti Antonello Ostilandia. E io buonasera a tutti e due, non so se mi ascolta l'amico di Soso, Franco, vedi un po', buonasera dal Barracuda, da Ossi. Ciao Gianni Barracuda, me l'ha ascoltato, adesso ti ascolto benissimo, con un segnale di 5 Radio 5 ti ascolto, mentre gli altri giorni non ti ascoltavo per niente. Ok, avanti per te ancora Gianni se mi hai ascoltato. Gianni, l'hai ascoltato? Forse non mi ha sentito. Gianni chi? Io sono Antonello Barracuda, non Gianni Barracuda. Oh Antonello, vai, scusami allora. Gianni, no, ti ascolto forte e chiaro, diciamo Santiago di 4, una radio di 4, vai. Qui in questo caso c'è meno problema e dunque riesco tranquillamente ad ascoltarti. Ehi, capo, dai. Va bene, potete ascoltarci. Avanti, che altro c'è qua in ruota? Qua c'è Barracuda, c'era anche Gianni Ropiurum, ma si è addormentato, credo, non ha più risposto. E allora Gianni si è addormentato, Gianni, poi, va bene, Luca, riprenditela. Sì, sì, Gianni, se c'è la prova a Camacchi, non vada, non si rammisa. Lo fa. Vabbè, sicuramente la giornata è stata piena e a quest'ora diciamo che il sonno chiama. Io metto mi dà di zinco, mi vuole di due. Capo, io di 5. No, domani no. Domani niente, domani mi alzo più tardi. Va bene. Marco Condor, avanti. Attenzione, Sardegna. Ci vede che ti chiama Sardegna. Avanti, chi cerca ti chiama la Sardegna. Sì, buonasera padre, qua è l'altra grande isola, città di Messina, Sicilia, ben sentiti. Città di Messina, modulante? Sì, modulante Umberto, stazione Umberto, Uomo Ragno, Messina Sud per l'esattezza. Ecco, se ho capito bene, ciao Umberto, qua siamo in una ruota, diciamo, in questo locale. Ci sono io, medesimo, Luca Turipano Nero, Nord Sardegna, Porto Torres, provincia di Sassari, se sai dove si trova, diciamo, l'altra estremità della Sardegna in direzione nord. Quindi da Messina o da Catania, mi sembra aver detto. Ti rimando comunque gli altri componenti della ruota. Qua c'è Franco da Sorso, che è vicino, diciamo, una ventina di chilometri dall'UTH. Avanti Franco. Ah, binario, sì. Buonasera. Riprendi un attimo, prendete voi un attimino che c'ho un problemino. Io si raccusa, giusto? Non da Ossi, Antonello. Io, buonasera, se copri, Barracuda, Ossi, provincia di Sassari, Sardegna. Non lo sento, sicuramente la propagazione sta chiudendo. Santiago 1 al filo di QRM. Raga, io vi saluto, dai, che la cucina mi chiama. Saluti a Barracuda, all'amico di Porto Torres e quelli di Sorso che si è allontanato momentaneamente. Quelli ti per me e buonanotte a tutti. Oh, ciao Marco. Ok, dai, ci sentiremo alle prossime. Comunque è stato un piacere, dai, ti sentivo ultimamente in questi ultimi periodi più bassino, quindi ha fatto qualche miglioramento. Bene così allora Marco, perfetto. Buonanotte, busto per domani. Ciao, ci sentiamo Marco. Tutte le prossime, sono rientrato, dai. Avanti Gianni, Antonello. Ciao Marco, sentiamo alle prossime. E approfitto anch'io che purtroppo non ho le cuffie e mia figlia Annanda mi sta dicendo di abbassare, ma se abbasso troppo poi non sento più niente. Ti saluto anch'io, dai, ci sentiamo se coincide a domani, buon proseguimento di serata. Ciao, dai. Ciao, ce ne ascoltiamo tutte le prossimini allora. Buon proseguo di serata e buonanotte quando lo fate. Avanti, Gianluca. Ciao Antone, ci sentiamo alle prossime, ok, fatti sentire più spesso, ciao. buonanotte, buon tutto per domani. Eia, d'accordissimo. No, bene o male, sono acceso ogni giorno. Sicuramente non coincidono gli orari, comunque. Se non sono qua, sono altre frequenze, sono sempre, la mia stazione è sempre accesa, dai. Buon proseguimento, ci sentiamo se coincide domani allora. Ciao, ciao, Antonio, la Sardegna. Ciao, ciao. Avanti chi chiama la Sardegna. Avanti chi chiama la Sardegna. Sì, sempre che chiama città di Messina. Buonasera. Ok, l'uomo ragno Umberto, dall'altra isola, diciamo, dalla Sicilia. Avanti, ti ascolti qua il tulipano nero. Buonasera, non diciamo ben sentito perché c'è poco propagazione, si sta abbassando il segnale. Ok Umberto, ti mando un altro corrispondente qua vicino a me, avanti Franco, da Sorso. Ehi Caffa, ciao Umberto, ben ascoltato. Umberto, l'uomo ragno, Franco da Sorso, ok, sempre in Sardegna, nella provincia di Sassari, a pochi capaime da Sassari. Avanti Umberto. Sì, buonasera. Più 9.20 senza modulare, 9.25 qua Sì, 27 sì, modulato, eh. Capo, sta spingendo adesso perché io l'ho messo a 50, l'ho messo, capito? Qui c'ho il processore inserito. Capito? E non mi sta, e non mi dà l'alternata, è un micidiale che... Aspetta, ti cambio. Eia. Vedi se c'è qualche positiva, mi sa forse qualcosa da qui, vediamo poco, guarda adesso ancora. Sì, ce l'hai, non è che c'hai cose delle casse del computer? Sì, sono collegate queste cavolo di cose, sì, sono proprio vicino, però non posso spegnere perché non spegne, lo stacca la corrente. Quelle lì sono allora, che ti fa quel rumore lì, perché quando lo accendo me lo fa anche a me. Rispondo il computer adesso e te la prendo muro muro. Se va bene, se non vuoi fare questo qua che funziona tu me, ma questo perché qua vabbè, non so che il trasformatore ce l'ho dietro, porca miseria, e io trovo c'è andata che c'è adesso, tocca spezzare tutta la scrivania. Ecco, ma non ce l'hai un pulsantino per spegnere la cassa? No, no, queste sono dirette, sono un po' di casse americane, si può sentire suonare, guarda, sono spettacolari, c'hanno il LED blu e c'hanno il potenziometro per aumentare e diminuire, con l'ingresso anche di un paio di cuffie, se vuoi da poter mettere un paio di cuffie. Sì, bisogna da sceglierlo, con aprire un attimino, fare un foro e mettere un tastino di quella levetta. Capo. Sì, perché tu farlo, vabbè, io ci vedo, però mi posso spegnere, non ho bene, c'ho il volume, dai. Guarda, adesso ce la fa ancora? Sì. Però non sono attratte, c'è qualche altra cosa? C'è qualche altra cosa, vuoi un poco? Allora, un'altra prova. Binario si racusa. Avanti Siracusa. Siracusa. Una stretta di mano a destra di la frequenza. Avanti chi ha fatto. Salve premiero opera. E capo Carmelo, buonasera, Franco D'Assonso, pubblica PM da Sassari, della provincia di Sassari. Avanti Siracusa. Va bene ascoltato, Una stretta di mano della prima volta. Qui sono da tira. Di Siracusa, Carmelo, ho capito bene. Dunque da Porto Torres siamo, diciamo che siamo distanti una ventina di chilometri con l'altro corrispondente Franco. Ok, nuovamente porto il mezzo, Carmelo. Cosa fare, sta scendo? Franco? Sceso, vai. Ok Carmelo, se ci ascolti ci ascoltiamo per le prossimine, dai, salutoni, ritieniti salutato, Franco D'Assonso, in provincia di Sassari. Grazie Franco, sì, la provazione fa, ma ecco, non è protettivo, sì. Franco mi è sentito una sorta di mano, che è al foto, speriamo in questo, bene, avanti Franco. Appa Carmelo, ti ho ascoltato al 100%, adesso ti ho ascoltato, solo che ogni tanto vai a finire in fondo che non ti ascolto più, perché la propagazione va e viene, non, paura che poi non ce li riascoltiamo più. Avanti Gianluca. Sì, ora essere percorsi in Sud Italia. Registrato il dato da Sud Italia. Quanto Carmelo si ascolta in quella, il tuo riparolito non sei l'UFA, mediante da Porto Torres, nord Sardegna, diciamo che siamo 20 km all'incirca distanti lineari dall'altro corrispondente Franco. Normalmente porta il mike Carmelo. Quando ci sono ancora momenti di preparazione, avanti il break che ha bussato.